sentiero che non basta, non basta mai. Non vedo nient'altro che un pezzo di cielo e il sorriso che tu hai. Wow, ah, ah, wow, wow, ah, ah, wow, wow, ah, ah, wow, wow. E comunque in la luna tra i lari ci spendeva mentre la gente cantava di là, come sul prato della mia città il sole illuminava. Soltanto tu, soltanto tu.